L'uomo soffre e la donna non lo sa. Walter Trobisch, nel suo indovinato libro dal titolo L'uomo incompreso, testimonia di aver letto su di un autobus la scritta anonima «L'uomo soffre e la donna non lo sa». Ho impiegato molto tempo, ma in seguito ho capito la ragione e la profondità di tale grido, un grido che merita un approfondimento almeno per due motivi. Perché l'autore di questo scritto parla di sofferenza. Un argomento intorno al quale non si potrebbe né si dovrebbe mai smettere di parlarne, dato che, se esiste un denominatore comune tra la razza umana, è proprio la sofferenza. Inoltre, l'autore della scritta, nell'affermare che la donna ignora la sofferenza dell'uomo, non si riferisce certamente a una sofferenza comune o a una sofferenza che anche la donna può sperimentare, perché in questo caso la donna ne sarebbe al corrente. Quale può essere la sofferenza sconosciuta e incomprensibile alla donna? Esistono forse nell'uomo sofferenze che le donne non possono comprendere? Sì, quelle per loro irrealizzabili. Posso sapere intellettualmente quanto si possa soffrire per la morte di un figlio, paragonandomi con altre sofferenze, ma finché anch'io non rimarrò privato di un figlio non saprò cosa significhi tale sofferenza. Quali sono le sofferenze che una donna non può capire in un uomo? La risposta può essere una sola: le sofferenze che non sono femminili, cioè quelle maschili. Esistono forse sofferenze maschili e femminili? Certamente. Per quanto un uomo possa avere molta fantasia, non saprà mai cosa significa avere i dolori della gravidanza e quelli del parto. E quali possono essere le sofferenze maschili estranee alla donna? Le sofferenze alle quali l'uomo della scritta si riferiva, quelle della sessualità. Ma la sessualità non riguarda forse anche la donna? Certamente, maschio e femmina condividono certamente aspetti gioiosi e dolorosi della sessualità, ma vi è una sofferenza maschile, che la donna ignora e non può immaginare, della quale può venire a conoscenza solo se l'uomo gliela partecipa. Credo che Walter Trobisch abbia scritto il suo ultimo libro, prima dell'improvviso e mortale infarto, libro terminato poi da sua moglie, proprio nello sforzo di far sapere alla donna con chi ha a che fare nel campo della sessualità. Un intento non comune a molti uomini, vergognosi di rivelare i propri complessi istinti sessuali e misteriosamente profondi. Quello che dirò ha lo scopo di rivelare la sofferenza dell'uomo sconosciuta alla donna. Per prima cosa, occorre partire dal presupposto che la sessualità maschile è diversa da quella femminile. Nulla di nuovo, tutti siamo a conoscenza che gli apparati genitali sono diversi e diversamente si esprimono, perciò non è a quella che mi riferisco. E poiché la sessualità non è un semplice atto meccanico, ma prima di tutto un fattore psicologico, è evidente che non si tratta solo di un rapporto fisico, ma psichico. La donna non lo sa, ma l'uomo ha un impulso sessuale continuo e sempre pronto. Per fare queste riflessioni, tengo presente che individualmente siamo tutti diversi. Perciò mi sto riferendo ad un aspetto generale della sessualità, sapendo che vi sono eccezioni, le quali mettono in evidenza ciò che è di norma. Sono convinto che a livello di conoscenza, alla donna si annota la disponibilità sessuale dell'uomo, ma non può capirne lo stato, anche perché la sua sessualità meno, e mi sto riferendo sempre alle donne comuni, meno è spesso assopita. Per l'uomo il desiderio sessuale è una costante, giorno e notte, senza per questo voler dire che è del continuo preso da irrefrenabili impulsi da soddisfarsi per forza. Nulla di tutto questo. Ma la realtà del desiderio sessuale nell'uomo è che questo impulso non viene interrotto al pari di quello della donna dopo un soddisfacente rapporto sessuale, ma continua sommessamente a reclamare la sua lecita soddisfazione. E se il desiderio sessuale si fosse anche addormentato, nell'uomo viene del continuo risvegliato in mille modi e in mille maniere. Innanzitutto occorre riconoscere che gli apparati genitali dell'uomo sono tutti esterni, mentre quelli di una donna per lo più sono interni e ben protetti dal corpo che non permette un immediato tocco come quello maschile. L'uomo, per la sua fisionomia, è costretto a toccare le parti intime più volte al giorno. E gli stessi indumenti stretti che porta, come i pantaloni, possono sollecitare un pericoloso lieve stimolo eccitante. E di questo stimolo in genere la donna non è a conoscenza. Non è una sofferenza ovviamente pari a un mal di denti, anche perché la donna saprebbe in cosa consiste, ma rimane un desiderio non soddisfatto, un lieve inappagamento che disturba la serenità della pace dei sensi. Una cosa è provare un desiderio risvegliato come per la donna quando ha un rapporto sessuale, altra è provare un tale desiderio che ti accompagna anche in situazioni impegnative della vita. L'uomo soffre e la donna non lo sa. La donna non può sapere che mentre anche solo parla con un uomo, questo può bastare perché lui sia già eccitato sessualmente e non per mera concupiscenza. Questo per la donna è un punto oscuro. È vero che l'eccitazione sessuale può essere provocata da desideri non giusti, definiti appunto concupiscenza da Gesù, ma è altresì vero che l'uomo spesso porta con sé gli ardori della sessualità indipendentemente dalla sua volontà. Non mi sto riferendo a coloro che hanno un certo squilibrio nell'impulso sessuale, ma ad un uomo chiamato normale, cioè un uomo che non abbia ripulsioni né morbosità verso la sessualità. Ogni uomo sa, e non la donna, che all'improvviso può essere assalito dagli ardori della sessualità, sa che quando meno se lo aspetta, questi istinti invadono tutto il suo essere e, se ciò accade in circostanze favorevoli per poterli soddisfare, tutto rimane sereno. Ma proviamo a pensare a circostanze avverse nelle quali non gli sia possibile calmare gli istinti. Un'agonia certamente non disperata, ma rimane pur sempre. Un'agonia. L'uomo soffre e la donna non lo sa, ma potrebbe anche capire il peso della sofferenza dell'uomo. Se provasse a immaginare di sentire quel desiderio che sta provando in un momento intimo col marito, senza però poterlo soddisfare, come vivrebbe? Come passerebbe le giornate? Una soluzione religiosa sarebbe di pregare Dio di togliere tale istinto inappagato, cosa che molte volte funziona in una donna, ma nell'uomo, per il quale tale impulso fa parte del suo essere maschio, come risolvere questo problema? Anche in questo caso la preghiera compie miracoli, ma se i piani di Dio fossero diversi, in genere noi davanti ad una difficoltà preferiamo evitarla o toglierla. Ma quando Dio non vuole farcela evitare o toglierla, cosa bisogna fare? L'unica è portarla, attraversarla, sopportarla, convivere con questi ardori di fuoco. L'uomo soffre e la donna non lo sa. Anche perché il sopito desiderio viene risvegliato moltissime volte al giorno, e questo per un uomo, significa un continuo esercizio a calmare ardori non indifferenti. Una cosa è dirlo, altra è metterlo in pratica sempre. E, come dire, di portare il peso di tuo figlio sulle braccia, puoi farlo per un tempo, per un altro periodo di tempo, e se sei bravissimo puoi farlo per un lunghissimo tempo, ma prima o poi cederai. Hai bisogno di rilassarti, anche se il peso che porti è una cosa giusta, così è della sessualità dell'uomo. E, con una tensione, una dolce tensione, una giusta tensione data da Dio per la perpetuazione della razza umana, ma meno come per ogni altra cosa, meno non può durare per sempre. Per mantenere sempre l'esempio di portare il peso di un bambino sulle braccia, per poterlo fare, occorre che i tuoi muscoli siano tesi in quella direzione. I tuoi nervi e il tuo apparato scheletrico devono funzionare a questo scopo. Il tuo cervello stesso lavora in modo particolare per poter tenere fra le braccia tuo figlio e quando lo posi per terra, ecco che tutta questa tensione svanisce e senti nel tuo corpo un benessere e una liberazione che non provavi prima di prenderlo in braccio. Così è per l'uomo di un rapporto sessuale soddisfacente che si conclude con il massimo piacere di ognuno. Prima dell'amplesso vi è una certa tensione nel corpo dell'uomo con una evidente manifestazione esteriore, tutto volge verso la direzione del piacere sessuale, ogni muscolo è teso, il cuore ha accelerato il suo ritmo e, una volta che il mare impetuoso del desiderio si è calmato, ecco che il corpo realizza una calma inesprimibile che la donna può anche non capire. E questo perché non, conoscendo come l'uomo soffra, non conosce neppure quanto benessere possa procurargli. L'uomo soffre perché la donna non lo comprende, Lei pensa che gli uomini in genere pensino solo a quello. Un quello che fa pensare gli uomini. Un eunuco non pensa al rapporto sessuale, non è attratto né sedotto da esso, ma per un uomo normale, una gonna, due gambe, i fianchi, i capelli, un seno. Scoperto adeguatamente, perfino una voce femminile, possono essere delle frecce seducenti per i suoi occhi. E la donna non lo sa. Diciamo che non lo sa, perché se lo sapesse sarebbe molto colpevole di come si scopre e di come agisce. Ma la carità cristiana ci impone di non sospettare il male. L'uomo soffre e la donna non lo sa, perché se lo sapesse sarebbe molto più grave il suo rifiuto ad una vera relazione sessuale con il suo uomo, per poi ricevere eventualmente con piacere complimenti e altro da altri uomini. L'uomo soffre e la donna non lo sa, ma a questa difficile relazione vi è un rimedio. La donna dia più attenzione alla sessualità maschile perché, come ha detto qualcuno, una moglie potrà dimostrare il suo amore in 100 modi, ma tutto ciò viene spesso negato. Se lei rifiuta il rapporto sessuale o non ne prova piacere. Inoltre, la moglie chieda spiegazioni al suo uomo. Non ritenga la sua sessualità errore, mentre l'uomo miri ogni giorno a raggiungere il più grande obiettivo che possa raggiungere, amare la propria sposa come Cristo ha amato la Chiesa, e renderla consapevole di questo. Come l'ha amata? Rinunciando a tutto, perfino alla propria vita. Il che vuol dire per l'uomo una rinunzia totale, se ha la chiamata, o parziale, cioè saper attendere, anche della sessualità. Il suo grido e i suoi ardori vinti vittoriosamente dall'amore che sopporta ogni cosa. 1 Cor 13.7 Aprile 2011 Ellero